O mundo non si addorme fino a quando chi stu respiro tuoi e non trova pace. E quando trova pace stu occhie mie se chiurono soltanto per sunna. E metto a fuoco la faccia toia che è bella, custo sorriso sempre innamorato. E piano piano, o sole scete, o iuorno. E tu custo sorriso scite a me. Ninco Nanco era conosciuto, a quel tempo, anche per la sua impassibilità nel compiere atti ferini. La sua compagna, Maria Lucia Dinella, nota come Maria Pastora, brigantessa di Pisticci, era sempre accanto a lui durante gli assalti e le imboscate. Secondo i racconti popolari della zona, quando Ninco Nanco strappava il cuore dal petto dei bersaglieri catturati, Maria gli porgeva sempre il coltello. Il ricordo di queste azioni cruente era ancora vivo tra gli abitanti della Basilicata nel 1935, quando Carlo Levidi fu confinato durante il regime fascista. L'intellettuale incontrò persone che affermavano di esserne state testimoni al tempo e riportò gli aneddoti nella sua opera Cristo si è fermato ad Eboli. Tuttavia, Crocco negò torture e scempi da parte del brigante avellanese ai danni dei militari prigionieri, asserendo che era terribile solo per la propria difesa. Il 7 gennaio 1861, incontrò Carmine Crocco, del quale divenne uno dei più fidati subalterni. Il brigante avellanese, assieme a Crocco, partecipò a numerosi saccheggi, conquistando prima di tutto il Vulture, senza mai riuscire a prendere la sua città natia, Avigliana.